Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. In regia la parte tecnica abbiamo Giacomo Spunta, in redazione Laura Vanossi, c'è anche la mia voce che va e viene, ma per fortuna c'è il nostro sommario. Herpes, un virus che si adatta a tutti. Impariamo a conoscerlo per anticiparne le mosse. Epilessia, nonostante tutto fa ancora paura, una ricerca lo dimostra. Non farti schiacciare dalla routine, ma usala per ricaricarti. Oggi puntata di fuoco, parliamo di herpes e non ci limiteremo alla classica febbre, tireremo in ballo anche i santi, uno in particolare il famoso Antonio. Se soffrite di herpes labiale, di herpes genitale o se invece farvi vedere le stelle, il fuoco di Sant'Antonio, nome di battaglia dell'herpes zoster, lo stesso che provoca la varicella, per intenderci, chiamateci subito all'800 24 0024. Come sempre potete mandarci anche i vostri messaggi al 349 238 6666. La famiglia dell'herpes non sarebbe finita qui, è molto numerosa, conta altri componenti, ma per oggi direi che possiamo occuparci di questi tre che ci danno già del filo da torcere. Sono virus subdoli, maledettamente intelligenti, meglio allora conoscerli, individuare bene le loro mosse per prendere le dovute precauzioni e mettere in atto le opportune strategie. Ci aiuta oggi la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia alla clinica Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Professoressa, finalmente tornata a trovarci. Finalmente mi avete invitata. Professoressa, io non... È un piacere, buongiorno. Buongiorno a lei. Professoressa, non posso fare a meno di aprire con lei una parentesi sull'influenza suina. Mi piace più di chiamarla influenza messicana. L'OMS lancia l'allarme e il grado di allerta passa da 4 a 5. Quindi siamo a livello 5 su 6. Io vorrei dare un messaggio che è poi quello che ci siamo tutti accordati noi tecnici di dare, perché è l'unico che possiamo dare, cioè sì, di tranquillità, di situazione sotto controllo e soprattutto noi non abbiamo una sfera di cristallo, non possiamo mai ogni giorno prevedere il futuro, i virus sono sempre in agguato. Direi che chi vuole documentarsi lo faccia consultando il sito del Ministero della Salute, che è direi in tempo reale aggiornato, o chi vuole un'informazione internazionale sul sito dell'OMS. C'è anche il numero verde del Ministero della Salute. Certo, il 1500. Il 1500, e non abbiamo nient'altro da dire, ma perché veramente non c'è nient'altro da dire. Ecco, allora arriva anche però una raccomandazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ad evitare l'acquisto e l'assunzione di antivirali in via preventiva. E in linea con noi abbiamo il direttore generale dell'AIFA, il professor Guido Rasi. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Bisogna assolutamente evitare di prendere gli antivirali in via preventiva. Sono farmaci che agiscono solo quando c'è già l'infezione e possono essere molto utili soprattutto per evitare le forme di aggravamento e le forme di complicazione, che sono poi il vero problema del potenziale di influenza. Assolutamente non sprecarli usandoli nella finestra sbagliata di tempo. Quindi c'è il rischio di sprecare strumenti di cura importanti, ma professor Rasi, molti acquistano gli antivirali nella convinzione che potrebbe essere utile averne alcune confezioni in casa in caso di pericolo. Sì, è del tutto inutile, anche perché non previene l'influenza, non la fa passare, servono solo per le complicazioni tipo polmonare. E quindi per prevenire o per curare le infezioni tipo polmonare vanno usati una finestra temporale ben precisa, né troppo presto né troppo tardi, quindi prescritti assolutamente da medici esperti. Ricordiamo che poi il Ministero ha più volte confermato la disponibilità di un numero di dosi perfettamente adeguate a fronteggiare un'eventuale epidemia di influenza messicana. Assolutamente sì, e questo deve essere appunto usato, il Ministero le sta accumulando e distribuendo nei punti, negli snodi chiave, saranno disponibili e naturalmente deve essere fatta una diagnosi certa di questo tipo di virus. Professor Rasi, so che lei è in partenza, le auguro un buon volo e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Professoressa Gismondo, allora torniamo invece al tema della nostra puntata. Parliamo di herpes, parleremo di herpes labiale, vaginale, genitale quindi, e dell'herpes zoster, il famoso fuoco di Sant'Antonio. Ma quello che sorprende di più di questi virus, e mi lasci dire in un certo senso suscita anche una forma di impotenza e di rassegnazione, è che se ci scelgono lo fanno per la vita, insomma si rintanano nei loro fortini, stanno lì sopiti, addormentati, sino a quando qualcosa li risveglia e allora si fanno nuovamente sentire, colpiscono e via, si ritraggono di nuovo. Professoressa. Sì, è vero, tutto quello che ha detto lei è assolutamente tecnicamente vero. Noi abbiamo contatto con questi virus già nella prima infanzia, perché sono veramente molto presenti, distribuiti nell'ambiente e comunque abbiamo un contatto molto precoce, ma questi virus, una volta che sono atterrati o approdati sul nostro organismo, danno un'infezione, possono dare la famosa febbre, possono dare qualsiasi tipo di infezione legati appunto alla loro patologia, e poi però quando noi pensiamo di essere guariti, siamo guariti dalla sintomatologia, dal fatto acuto, ma in effetti loro se ne stanno rintanati, e quando si ricreano le situazioni per loro ottimale, quindi stress eccetera, riappaiono. Quindi non ce ne liberiamo mai. Sono molto comuni e di ciascuno di loro racconteremo vita e danni. Con l'aiuto della professoressa Gismondo ci raggiungeranno anche altri esperti. Quindi se soffrite di herpes, se avete un partner che ne soffre, cosa fate ad esempio? Come vi comportate? Quando compaiono le prime bollicine, adottate tutte le precauzioni necessarie oppure invece vi trascurate un po'? 800 24 00 24. Allora, professoressa Gismondo, nell'attesa delle nostre telefonate stanno già arrivando molti messaggi, ci dica qualcosa dell'herpes labiale, la famosa febbre. Molte persone, quando ad esempio prendono il sole, quando sono stanche dopo un'influenza, vedono comparire le prime bollicine. Infatti, come dicevamo prima, questo virus sta lì rintanato in nostre terminazioni nervose, perché ama molto le terminazioni nervose, sta lì a dormire, è un virus silente, poi appena c'è uno stress per cui il nostro organismo abbassa le sue difese nei suoi confronti, cammina, letteralmente viaggia attraverso le terminazioni nervose e poi va a manifestarsi a livello epidermico, per esempio nelle labbra è un sito molto, molto gradito dal virus, e viene chiamato febbre anche perché è tipico quando ci sono le febbre molto alte, i bambini soprattutto ne sono affetti, e quindi nell'immaginario popolare si chiama proprio la febbre. Anche la febbre ha il suo decorso, cresce a poco, all'inizio si avverte una leggera tensione, un pruriginosa, poi compaiono le bollicine che sono piene di un liquidino, poi si rompono, arrivano le croste. Allora, qual è, professoressa Gismondo, il momento più contagioso? Ma il momento più contagioso è quando ci sono le bollicine che cominciano a spaccarsi, ad aprirsi. Ecco, quello è il massimo contagio. Rimane ancora una certa contagiosità, pericolo di contagio, anche quando cominciano a comparire le croste. Però non sicuramente nella primissima fase, quando c'è ancora prurito, turgore, perché in quella fase il virus non è disponibile. È meglio utilizzare ad esempio asciugamani differenti, oppure non utilizzare ad esempio luci da labbra e rossetti, perché poi quando l'herpes va via dovremo cambiarli? Quali attenzioni dobbiamo avere? Ma ci sono delle attenzioni che secondo me bisogna utilizzare sempre. Sì. Per esempio, lei ha citato luci da labbra e rossetti. Quando noi andiamo nei supermercati piuttosto che nelle profumerie, abbiamo dei tester e vediamo delle ragazzine che stanno lì a provarsi il rossetto, eccetera. Ecco, questa è assolutamente un'abitudine deleteria, perché non sappiamo se la persona, in buona fede, che ci ha preceduti magari aveva un herpes e quindi ce lo trasmette, ma anche tante altre infezioni. Quindi questa è una regola generale. Se poi noi siamo a contatto, vediamo, abbiamo accanto una persona che è affetta da herpes, certamente non condividere tutto ciò che può diventare un mezzo di un ponte infettivo tra la persona e noi, quindi mai bicchieri. Usare gli stessi asciugamani, evitare di usare gli stessi bicchieri, insomma tutto ciò che ci può veicolare il virus dalla persona infetta a noi, ma questa dovrebbe essere una regola generale. Bisogna però giocare d'anticipo. In linea con noi abbiamo il professor Monti, responsabile dell'unità operativa di dermatologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rezzano. Professor Monti, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Allora, questo benedetto herpes, la febbre fastidiosa, antiestetica, ma in qualche modo possiamo arginare i danni, intervenire. Voi dite bisogna intervenire precocemente, perché? Bisogna intervenire precocemente perché il virus è molto rapido, arriva, attacca, distrugge le cellule, fa le bolle, ma in poco tempo, nel giro di 10-12 ore, si ritira, torna nei nervi, come diceva la collega, e quindi non è più aggredibile da nessun farmaco. Quindi che cosa va bene la classica pomatina che acquistiamo in farmacia? Alcuni ascoltatori sono già 4-5 che mi scrivono, il dentifricio funziona applicato sulle prime bollicine? Professor Monti. Sì, ci sono molti rimedi popolari, il dentifricio, il freddo, altre cose. In realtà c'è ben poco da fare, perché anche il farmaco specifico che si chiama ciclovire, che c'è in pomata in tutte le farmacie, in realtà agisce poco, perché quando noi iniziamo a applicarlo il virus ha già finito di fare i danni, avremmo dovuto applicarlo prima che i danni fossero creati. Qui in Humanitas quindi abbiamo cambiato completamente atteggiamento e non diamo più queste pomate antivirali, ma cerchiamo di bloccare il danno cutaneo e farlo risolvere il prima possibile. E per questo prescriviamo un gel astringente all'alluminio, ai sali di alluminio. Questo blocca il prurito, blocca l'essudazione, non fa infettare la ferita e tutto sommato la febbre delle labbra guarisce in pochi giorni o addirittura in un giorno solo. Professore, questo gel ai sali di alluminio si trova in farmacia o un galenico? No, no, si trova in farmacia, è il cloruro d'alluminio al 5%, qualsiasi persona lo può trovare. Professore, volevo prima di salutarla chiederle qualcosa su questi cirottini, che l'herpes, la febbre la nascondono ma la curano anche, lei li consiglia? No, li sconsiglio totalmente. Perché? E questo è il motivo, perché tengono umida la ferita sotto. E siccome la nostra pelle, oltre che l'herpes, ha anche i batteri suoi, gli stafilococchi, i streptococchi, si rischia l'infezione della ferita erpetica e quindi di proseguire con un'altra malattia che poi è difficile da riconoscere rispetto alla prima, cioè abbiamo l'herpes, poi arrivano i batteri, creano un'infezione batterica e non sappiamo più niente. Professor Monti, la ringrazio, grazie. Ci ricorderemo di questa indicazione, di questo gel ai sali di alluminio. Gel astringente. Sì. Gel astringente. Grazie professor Monti, grazie, buona giornata. Buona giornata. Professoressa Gismondo, soffro di febbre da sempre, come non trasmetterla a mia figlia? Ho letto su internet che ci sono degli alimenti che non la fanno esplodere, ci scrive un ascoltatore. No, io già l'ha detto il collega, sono tutti modi di pensare, usanze popolari che non hanno niente a che vedere con la realtà. L'unica cosa che posso consigliare di concreto a questa signora, a questa giovane mamma, è quello che di evitare, anche se da mamma è molto difficile, di sbaciucchiare la bimba perché ovviamente quando ha le vesciche, le vescicole, non certo sempre, sarebbe una privazione quasi insostenibile, solamente quello. Andiamo a Perugia, ci aspetta Rita. Buongiorno Rita, 800 24 0024, può arrivare alla sua domanda. Grazie dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Io mi riferivo a quello che ha appena detto il professor Monti a proposito dell'herpes labiale. Sì. Quindi io che utilizzavo il ciclovirale, ho capito che non lo devo utilizzare più, ma devo usare un gel astringente ai sali di alluminio al 5%. Sì. E no ai cerottini. Sì. Siccome a me capita spesso che questo avvenga, cioè l'herpes mi si presenta durante l'anno anche 4-5 volte così, volevo sapere se c'era un rimedio magari più almeno più per aggressivo, certo, nei confronti del virus. Almeno per allontanare queste il tempo tra una febbre e l'altra, allungarlo. Esatto. Professoressa Gismondo. Io direi che siccome il virus appare quando le nostre difese si abbassano, ma quando parlo di difese che si abbassano può essere uno stress lavorativo, un periodo in cui dormiamo meno, un raffreddore, non parliamo di influenza ovviamente, e quindi è il caso di tenersi con l'alimentazione, con dei supporti vitaminici, se il medico appunto li indica e li trova opportuni, in maniera tale da migliorare la nostra risposta. Aggredire questo virus è praticamente impossibile, allora dobbiamo agire sull'altro fronte, essere molto più preparati e molto più resistenti. Andiamo a Siracusa, ci aspetta Corrado, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo fare una domanda. Sì. Io sono circondato da persone che sono affette da herpes periodicamente, però io non l'ho mai preso, non ho preso la varicella da piccolo, nonostante l'avesse avuta mia sorella, e ci ho dormito assieme a 6 anni. Sì. E quindi volevo chiedere alla dottoressa se una persona può rimanere immune a vita a queste forme, oppure ci può essere una fase in cui comunque può andarla a prendere. Grazie Corrado, bella domanda. Professoressa Gismondo. Beh, ringrazio anch'io per la domanda, veramente molto, molto interessante. Allora, l'immunità nei confronti dell'herpes, lei ha detto una immunità a vita, quindi una lunga immunità, non esiste. Ma questo non significa che una volta infettati, e quindi non significa che una volta infettati non possiamo reinfettare. Il fatto che qualcuno non ha mai avuto un episodio erpetico, ma neanche a contatto con altre persone, può significare due cose: o abitudini igieniche veramente molto sane, per cui di fatto non si è data la possibilità del contagio, oppure delle risposte immunitarie così elevate, così ottimali, che il virus è stato sempre sconfitto prima ancora di dare l'infezione. Professoressa Gismondo, la febbre, l'herpes virus di tipo 1 può migrare anche in altre sedi? Sì, guardi, prima si pensava che ci fossero due tipi distinti anche come sede di herpes. Si parlava del labialis e del genitalis, che esistono come specie, però non sono limitate labialis alle labbra, il genitalis alle sfere genitali, ma possono anche incrociarsi, cioè il genitalis può infettare le labbra, la cute, e anche il contrario, il labialis. Questo per quanto riguarda questa tipologia di virus, però sappiamo che nell'ambito della grande famiglia dei virus herpetici, che devo dire non conosciamo neanche a fondo, perché noi conosciamo le infezioni più evidenti, quelle che ovviamente hanno attratto l'attenzione in maniera più evidente, ma ci sono tantissimi altri lati oscuri di questo herpes, addirittura si studia il fatto che possano intervenire in malattie molto gravi, anche come con causa dell'Alzheimer per esempio, quindi sono dei virus estremamente diffusi, estremamente aggressivi e con una potenzialità di patologia molto vasta, vanno dalle infezioni cutanee a quelle neurologiche. Non dimentichiamo che in soggetti particolarmente defedati addirittura si possono avere delle encefaliti erpetiche che possono portare anche a morte, però stiamo parlando di casi estremi, non vorrei che i nostri ascoltatori pensassero, certo, che fosse una cosa, una complicanza facile di una febbre delle labbra, insomma, no, assolutamente no. Andiamo nella provincia di Bologna, aspetta Giuditta, buongiorno. Buongiorno signora Nicoletta, lei è molto simpatica. Grazie. Si sente molto male però al telefono. Sì. Io volevo portare questa esperienza mia, non so spiegare, però è veramente vera, è autentica, perché non avrei motivo di, certo, di fare altrimenti. Io ho sempre sofferto fin circa ai 30 anni di herpes, ma tanto sulle labbra, poi mi andavano anche nella mucosa del naso. E in questi 30 anni ho fatto dei corsi di rilassamento, sì, dello Stato, perché io ero un insegnante di sostegno, quindi era un rilassamento da insegnare, imparare noi per insegnare ai bimbi. Insomma, questo ci insegnava a localizzare tutti i punti del nostro corpo, a rilassarsi così. A me è stato suggerito, quando stavo per, di stare attenta quando mi stava per venire quel pruritino, quel calcino, sì, che prelude alla febbre, e poi cercare di localizzare col pensiero quel punto, che si farlo diventare più caldo, in effetti lo sentivo più caldo, e l'herpes si seccava. Guardi, io l'ho sperimentato. E allora ha funzionato. Lei ha imparato queste tecniche di rilassamento e in qualche modo ne ha beneficiato per la sua febbre. Infatti abbiamo detto che questo virus si risveglia quando siamo anche particolarmente stressati. Professoressa Gismondo. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che moderare lo stress possa essere uno dei baluardi del virus. L'abbiamo detto, un qualsiasi stress può aprire, spalancare la porta a questo virus o perlomeno dare la possibilità che si risvegli, perché certo, abbiamo detto che rimane dentro di noi sempre. L'altra parte della nostra ascoltatrice, cioè focalizzare l'attenzione, diventa caldo, esula un po' dalla mia tradizione culturale e non ne do una spiegazione, non la so dare, e per carità, senza mettere in discussione l'esperienza certo della nostra ascoltatrice. Io mi permetto di dire che in molte infezioni, soprattutto quelle che intervengono in stati di immunodepressione, anche la personale suggestione, l'aspetto psicologico può influire, come d'altra parte in tutte le patologie. Noi sappiamo che ci sono delle prove in cui al paziente che è convinto, l'effetto placebo, è convinto di prendere una medicina, diamo solamente dell'acqua, molte volte ha dei miglioramenti sensibili quasi al pari di quando assume un farmaco. Quindi c'è un aspetto di questo genere. Non riesco, ma sarà un mio limite, a dimostrare e a spiegare l'effetto e il fenomeno che ha avuto positivamente, devo dire, la nostra ascoltatrice. Comunque, sicuramente tenere a bada lo stress, gestire lo stress, come condurre una vita sana con una dieta varia ed equilibrata, quindi rendere forte il nostro sistema immunitario, non dico che questi virus li faccia scappare, ma sicuramente li lascia magari sopiti. Puntata di fuoco, professoressa Gismondo, devo dire che l'herpes è uno dei temi che interessa molto i nostri ascoltatori, arrivano tantissime telefonate, messaggi, in linea ne avremo modo di parlarne nel corso della trasmissione, ma professoressa Gismondo, se lei mi permette, apro una breve parentesi per commentare i dati di un sondaggio Doxa che è stato fatto a 25 anni di distanza dal primo, in qualche modo valutare la percezione dell'epilessia nell'opinione pubblica. Bene, molto si è fatto, ancora qualche cosa da fare comunque rimane. E in linea con noi abbiamo il professor Ruboli, neurologo e rappresentante della Lega Italiana contro l'epilessia. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. Allora, che cosa viene fuori da questo sondaggio che voi avete voluto fare a distanza di 25 anni, un po' anche per valutare quanto l'informazione nei confronti di questa malattia sia stata efficace e abbia dato frutti? Siete soddisfatti o dovete ancora rimboccarvi le maniche? Ma pensiamo ci sia ancora molto da lavorare. Il sondaggio ha mostrato che se in questi 25 anni la conoscenza dell'esistenza della malattia è aumentata da un 73% di 25 anni fa, adesso più del 90% degli intervistati sa che esiste una malattia chiamata epilessia, in realtà però la conoscenza è estremamente generica e superficiale. Basti pensare al fatto che il 40% di chi ha risposto appunto al sondaggio la ritiene ancora una malattia mentale, mentre in realtà l'epilessia è una malattia neurologica, una malattia del cervello. Assolutamente. Abbiamo dedicato proprio delle puntate intere sull'epilessia. Però, dottor Ruboli, ci sono anche delle buone notizie. Infatti, se la percezione di questa malattia è ancora delle zone d'ombra, molti ancora pensano, appunto, come diceva lei, che si tratti di una malattia mentale, questo dà là tante altre, no, idee e supposizioni. Certo. La ricerca è sicuramente andata avanti e oggi ci sono delle terapie molto efficaci che garantiscono a chi soffre di epilessia, anche di forme gravi, una qualità di vita sicuramente migliore rispetto al passato. Certamente, sicuramente negli ultimi 15 anni direi numerosi farmaci di nuova generazione sono entrati in commercio che hanno un'ottima efficacia e sono generalmente anche meglio tollerabili. Questo ha migliorato la possibilità di cura farmacologica dell'epilessia. In più sono migliorate anche le procedure di tipo chirurgico, che sono riservate ad un numero ristretto di pazienti con epilessie che non rispondono ai farmaci, ma sicuramente è una procedura questa che viene applicata sempre di più. Sicura ed efficace. Dottore, il 3 maggio si celebra l'ottava giornata nazionale dell'epilessia, tante iniziative, manifestazioni, tra l'altro anche 3 maratone. Possiamo rimandare i nostri ascoltatori per avere ulteriori informazioni al sito della Lice, www.lice.it. Dottore, la saluto, la ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. Professoressa Gismondo, abbiamo detto che herpes labialis, herpes genitalis sono 2 virus, ma abbiamo visto che l'herpes labialis può presentarsi anche in altre zone che non sono necessariamente quelle delle labbra, così si può dire dell'herpes genitalis. Ma che differenze hanno questi 2 tipi di virus che voi chiamate simplex 1 e simplex 2? Sono delle differenze genomiche, sono delle differenze proprio insite nel virus, anche di un certo tipo di attacco delle mucose, di preferenza di una mucosa piuttosto che l'altra. Però ai nostri ascoltatori secondo me deve passare il messaggio, visto che c'è poco tempo nella sua preziosa trasmissione, deve passare il messaggio che comunque si parli o di labialis o di genitalis, le precauzioni sono sempre le stesse e che comunque il virus può non limitarsi alla zona nella quale è caratterizzato. Si trasmette l'herpes genitalis attraverso è un virus a trasmissione sessuale. Sì. Ma non solo, veda, quando si parla di trasmissione sessuale ovviamente si intende l'atto sessuale in sé, come per esempio abbiamo parlato dell'HIV, dell'epatite B e C. In questo caso è il contatto fisico con le vescicole. Potrebbe anche non esserci un atto sessuale e avere un'infezione, ma basta avere contatto con quelle vesciche. Ecco, la ringrazio perché volevo proprio sottolineare questo aspetto. In linea con noi abbiamo il professor Emilio Arisi, che è consigliere nazionale della SIGO, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e alla professoressa Gismondo e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Professore, come si presentano queste vescicoline? Perché sono un po' strane, possono essere piccolissime o anche molto grandi, è vero? Sì, è verissimo, e a volte addirittura possono apparentemente non esserci. Quindi la presentazione a livello genitale è molte volte un po' diversa da quella che tipicamente vediamo a livello delle labbra. In ogni caso la loro presentazione classica è quella di vescichette più o meno voluminose con un'area arrossata circostante e accompagnate da una serie di sensazioni che sono sostanzialmente di prurito, di bruciore o di dolore urente, che poi dopo si modificano nel giro di qualche giorno e lasciano magari il posto a piccole crosticine oppure addirittura a nulla. Andiamo a Modena, ci aspetta Alessandro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno e complimenti. Vi facevo rapidamente la domanda. Io ho 24 anni, la mia compagna ha herpes e anch'io ho herpes. Sì. Io mi reprimo con la ciclovira ogni sera, mentre lei, usando questa pomata, sente del bruciore a livello vaginale. Sì. E non sappiamo se a questo punto è herpes oppure fosse qualcos'altro. Gli specialisti non ci hanno dato risposte concrete, lei tuttora adesso continua a soffrire di dolori, bruciori e sensazioni sgradevoli. Ed herpes non c'è la vescicolina dell'herpes. Chiedevo questo, ecco, grazie. Allora, le metto a disposizione 2 esperti. Professor Arisi, lei che cosa suggerirebbe al nostro ascoltatore? Beh, la prima cosa che suggerirei è di farsi vedere da un centro altamente specialistico, e ve ne sono anche proprio nella zona citata dal nostro ascoltatore, che siano in grado di discriminare l'eventuale presenza di herpes virus da altri tipi di lesioni o infiammazioni virali o batteriche. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che sono costretto a dire che purtroppo non sempre, in particolare nelle recidive, quelle manifestazioni tipiche di cui parlavamo sono presenti. A volte proprio non si osserva nulla a livello vulvare o genitale e semplicemente la donna racconta la sua storia di dolore urente, di dolore impertinente, stavo per dire, per non usare una parola medica ma che rende bene l'idea, certo, che non scompare, che si sollecita immediatamente a un rapporto oppure dopo un viaggio in moto, dopo comunque un qualcosa che irriti la zona. Perciò non è sempre facile, capisco anche da parte di uno specialista, arrivare con gli strumenti sofisticati, arrivare con una diagnosi vera. Volevo, prima di arrivare alla terapia, per capire che cosa c'è oggi a disposizione per calmare almeno il dolore nella fase acuta, un contributo della professoressa Gismondo. Professoressa. Ma io avrei dato l'identica risposta del collega, direi che aggiungerei una cosa, non so se il collega è d'accordo, di non sottovalutare che alcune formazioni a livello vaginale possono essere scambiate, e nell'area genitale possono essere anche date da condilomi, e quindi è molto meglio andare dallo specialista e farsi osservare. Professora Risi, non possiamo suggerire terapie al telefono, ma che cosa c'è oggi a disposizione? Abbiamo parlato dell'herpes labialis, il professor Monti ha fatto un po' un distinguo sulle terapie oggi a disposizione, suggerendone alcune, evitandone, caldeggiandone altre. Lei che cosa ci può dire a riguardo? Beh, ci sono, come credo ormai tutti sappiano, delle possibilità di farmaci antivirali che possono essere usati localmente sotto forma di creme, sì, o usati per via generale, sia per via orale e nei casi più acuti e drammatici anche per via generale, cioè per via endovena. Sì. Quelli sono i casi in cui naturalmente la donna ha più facilmente addirittura un ricovero, perché ci sono situazioni in cui la donna non riesce per esempio a urinare per il fiore della zona. Questi sono dei casi particolari. Se no, la terapia più comunemente utilizzata è quella per via locale con una crema, e per via generale con un farmaco antivirale per bocca, che si usa per alcuni giorni a seconda del tipo di molecola utilizzata. Professore, abbiamo parlato di donne, ma naturalmente è un problema che può interessare anche gli uomini. Assolutamente. Quindi le stesse indicazioni sono indicazioni unisex quelle che possiamo dare. La cosa importante forse da aggiungere rispetto all'uomo è che a volte l'uomo è, come dire, un po' meno responsabile in questa, come purtroppo in tante altre malattie a trasmissione sessuale, mentre invece è giusto che anche l'uomo si assuma la responsabilità di essere attento laddove ci sia una lesione presente, acuta, di o non avere rapporti o di utilizzare il preservativo, che va utilizzato comunque anche quando la donna ha la fase acuta, sempre che abbia, come dire, desiderio o disponibilità ad un rapporto sessuale. Professore, io la ringrazio, la saluto, le auguro una buona giornata. Professoressa Gismondo, sì. Il fuoco di Sant'Antonio. Beh, quello è fastidioso davvero. Quello lì sono dolori, Sì. Non solo nella fase acuta, ma anche dopo. Ma è lo stesso virus della varicella. È dello stesso gruppo, della stessa famiglia. No, mi parlava della varicella, mi scusi. Sì, è lo stesso virus della varicella, tant'è vero che si chiama virus zoster varicella, perché nella prima manifestazione dà la varicella. Dopodiché, abbiamo detto, come tutto questo gruppo di virus, si mette lì a dormire, e in alcuni casi di particolare stress, torniamo ancora allo stress inteso in senso generale, può essere stress da fatica, ma può essere una malattia, può essere una gravidanza, alcune donne ce l'hanno in concomitanza con il ciclo mestruale, sì. E allora questo virus si risveglia e può dare anche il fuoco di Sant'Antonio. Però direi che rispetto alla labialis e genitali stiamo parlando di una manifestazione molto, molto più importante, e peraltro è necessario una immunodepressione più importante. Intanto diamo la parola a Roberta e poi a Mario, che Roberta ci chiama da Roma. Buongiorno Roberta. Buongiorno, buongiorno professoressa, volevo chiederle un consiglio. Io soffro di herpes da circa 6 anni, e 2 anni fa mi è stata fatta l'esame delle vescicole ed è uscito fuori un herpes di tipo 2. Questo herpes si manifesta su un gluteo e lungo la gamba, però in modo molto invasivo. Sì. Io, ecco, prendo aciclovir quando vedo che si sta... Sì, inizia a muoversi. Sì, anche però cioè, io l'ho tipo ogni 15 giorni. Ah, caspita. Sì, guardi, è una cosa... È un tormento, Roberta. Sì, un tormento, ecco, l'ho definito perfettamente. Molte volte non prendo la ciclovir perché magari, ecco, è troppo ravvicinato, perché molte volte succede che io finisco i 7 giorni della ciclovir da 800, tra l'altro, e subito dopo qualche giorno si ripresenta. Professoressa Gismondo. Lei, se posso, una domanda alla mia, alla nostra ascoltatrice. Lei è andata da un infettivologo e ha fatto dei controlli anche ematici per capire un attimo se c'è qualche così situazione che la mette in una particolare poco difesa nei confronti di questo virus? Sì, guardi, io ho fatto questi controlli poi subito dopo una gravidanza, quindi insomma in un periodo un po' particolare, e sono uscite fuori delle cadute in effetti nelle varie sottotipizzazioni, cose molto lieve, però qualcosina c'era. Poi, è da tenere sotto controllo, perché quella può essere sicuramente la causa. Vede, se non si va a tamponare, guarire o risolvere la causa, è difficile poi risolvere gli effetti. Lei ha riferito una manifestazione che è molto tipica dell'herpes, cioè quello che segue proprio nella sua manifestazione la linea nervosa, cioè segue proprio il suo cammino, perché cammina attraverso le terminazioni nervose e quindi viene giù nella gamba, nella coscia, eccetera. Sì, perché le manifestazioni possono essere, come abbiamo detto prima, anche al di fuori delle labbra o delle sfere genitali. È ovvio che nelle mucose è molto più facile che appaia, però questo non esclude altre sedi, come lei ci ha dimostrato. Elena con noi per aiutarci a capire se ci sono delle novità nel trattamento del fuoco di Sant'Antonio, soprattutto per gestire il dolore che spesso ha accompagna, segue alla fase acuta, abbiamo il professor Ruggero Zucchi. Buongiorno. Buongiorno a lei, signora. Responsabile dell'unità di terapia del dolore dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata IDI di Roma. Professore, un dolore, ne parlavamo con la professoressa Gismondo, davvero importante, non solo quando ci sono queste manifestazioni cutanee, ma anche dopo. Che cosa si può fare? Ci sono delle novità? Possiamo dare qualche speranza ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo proprio per raccontarci tutta la fatica di portarsi dietro questo dolore che può durare mesi e anche anni? Certo. Guardi, il problema del dolore in fase acuta, dello zoster, è un problema di possibile soluzione. Sì. Quello che è molto difficile da curare è la cosiddetta nevralgia postherpetica, che viene definita a livello internazionale come il persistere del dolore dopo 3-4 mesi dalla guarigione della fase cutanea, in pratica al quinto-sesto mese della malattia. Ora, una soluzione definitiva al problema della nevralgia postherpetica non c'è. Ci sono stati dei miglioramenti, ci sono dei nuovi sistemi di cura, ma non c'è una soluzione definitiva. Rimane quella che è considerata la bestia nera degli ambulatori di terapia del dolore un po' di tutto il mondo. È una difficile malattia. C'è una grandissima novità nel fatto della prevenzione della malattia, e cioè negli Stati Uniti è stato messo a disposizione già del pubblico un vaccino, sì, che è iniettato nei soggetti, si consiglia dai 60 anni in su, riesce a prevenire gran parte dei casi di zoster e a diminuire comunque le complicazioni dolorose della nevralgia postherpetica. Questo vaccino non è ancora in commercio in Europa, è adesso al vaglio dell'EMEA, cioè dell'istituzione che a livello europeo si occupa della immissione in commercio dei farmaci in Europa, e si spera quanto prima di averlo. Quello è un vaccino che veramente può cambiare la storia naturale della malattia. Dal punto di vista terapeutico, sì, poi ci sono altre opzioni, se vuole poi ne posso parlare. Ad esempio? Dunque, una delle novità che ancora non è in commercio in Italia, però è stata messa già in commercio in Germania e in Inghilterra, è un cerotto che contiene una sostanza che si chiama lidocaina, che è un anestetico locale, che applicato sulla zona cutanea dolorosa riesce a controllare o ad alleviare molti dei casi di dolore postherpetico. È ovviamente una medicina di tipo sintomatico, non risolve il problema, perché il problema è dato da una lesione pressoché definitiva o a livello gangliare o a livello addirittura del midollo spinale causata dal nervo, e non potendo guarire in modo definitivo questa lesione che è causa del dolore, si può tentare con altri sistemi. Uno dei sistemi non ancora in commercio in Italia, ma lo sarà io penso nel giro di uno massimo due anni, è questo cerotto. Gli altri sistemi sono... Lasciano un po' il tempo che trovano. No, no, questo assolutamente no, perché gli antidepressivi triciclici fondamentalmente è una sostanza che si chiama amitriptilina, che è uno dei primi antidepressivi messi in commercio nella storia della psichiatria, è un farmaco estremamente importante nella cura del dolore neuropatico. Beh, meno male. Ci sono degli antiepilettici, il gabapentino e il pregabalin, che sono anch'essi efficaci e di recente, negli ultimi anni, si va sempre più affermando l'opinione di usare gli oppioidi, i farmaci derivati dall'oppio, per il controllo di questo dolore. Proprio recentemente, questo mese, sul numero di Pain, che è la più importante rivista del mondo nel campo del dolore, è uscito un articolo di un neurologo americano molto bravo, molto capace, si chiama Dworkin, il quale mette in evidenza come questo farmaco, che si chiama ossicodone e che attualmente a livello ministeriale è stato derubricato da stupefacente a normale farmaco, per cui si può prescrivere nei dosaggi di 5-10 mg su un normale ricettario mutualistico della ASL, questo farmaco si è rivelato molto efficace nel controllo del dolore sia in fase acuta che in fase post-herpetica. Io volevo approfittare dei miei ospiti per rispondere a almeno 3 o 4 sms. Uno in particolare mi ha fatto molto tenerezza, è Mario, è un nonno, dice che soffre di herpes zoster, ma la sua figlia non gli fa vedere i nipotini perché teme che in qualche modo gli possa passare l'infezione. Professoressa Gismondo, abbiamo mezzo minuto per rispondere. La cosa importante è che le nipotine, i nipotini, come immagino non accada, non mettano le manine o non tocchino quando queste vesciche si aprono, ma per il resto, per carità, possono sbaciucchiare il nonno quando vogliono, non succede assolutamente niente. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati con noi, non siamo riusciti a passare tutte le domande che sono arrivate, ricordo che la nostra posta elettronica è a vostra disposizione, esserebenessere@radio24.it. Saluto la professoressa Gismondo che ci ha accompagnato in questo viaggio alla scoperta di tre componenti di una famiglia davvero numerosa ma anche dolorosa. Grazie a voi. Grazie. Saluto il professor Zucchi che ci ha dato delle ottime notizie, ci ha dato anche delle anticipazioni che sicuramente avranno fatto piacere alle persone che con questo dolore si confrontano. Professore, grazie, ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti voi, noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.